La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci alla rosa purpurea, il momento del cinema è arrivato, l'ora è scoccata. Un buon sabato a tutti, un buon weekend di cinema a tutti da Franco D'Assisi, il nostro programma come sempre che vi porta in casa, in macchina, ovunque voi siate, anche in podcast, tutto il cinema che c'è. Ce n'è tanto questa settimana, sono più di una decina i film nuovi che hanno trovato la via della sala in questo weekend, capitanati da un blockbuster annunciato per quanto riguarda l'animazione come Kung Fu Panda 3, di cui parleremo diffusamente in questa trasmissione. Abbiamo le interviste a Fabio Volo, al regista italiano del film, Alessandro Carloni, ma ci arriveremo perché la puntata è molto ricca e la vogliamo cominciare con un film che è proprio di atmosfera pasquale, se vogliamo, e si intitola Risorto. Il Nazareno ha detto che sarebbe risorto dopo 3 giorni. Se fosse vero, perderemmo l'ordine e la pace. Il corpo è scomparso. La sua tomba è vuota. Lo hanno già proclamato risorto dalla morte. I suoi seguaci, dove hanno nascosto il corpo? Non sono stati seguaci di Yeshua. Stai cercando qualcosa che non troverai mai. Apri il tuo cuore e guarda. Di cosa hai paura? Di avere torto. Di scommettere la mia eternità. E insomma, la storia è piuttosto nota, diciamo così, no? La si celebra prossimamente con la Santa Pasqua, la risurrezione di Cristo, il mistero della risurrezione di Cristo e tutto quello che ha provocato in quei giorni. Qualcuno ha parlato di sequel di Passion of Christ di Mel Gibson. In realtà è più un remake vero e proprio, anche se non dichiarato, e su questo ci sarebbe qualcosa da ridire, di un film come L'Inchiesta di Damiano Damiani di una trentina di anni fa, che era nato da un'idea di Ennio Flaiano e raccontava proprio con una sorta di taglio da legal thriller cosa era successo in quei giorni successivi e soprattutto l'inchiesta su dove fosse finito il corpo di Cristo. Il regista di questo film, che è Kevin Reynolds, ex sodale di Kevin Costner, ricorderete alcuni suoi film d'azione, tra tutti Robin Hood per intenderci, ma anche Fandango in anni ancora precedenti, mette insieme un cast capitanato da Joseph Fiennes proprio nei panni di colui che deve cercare di capire qualcosa di questa storia. Dove è finito il corpo di Gesù? Chi sono i suoi apostoli? Lo stanno nascondendo fino a una conversione. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Ben ritrovato a te Franco, a tutti gli ascoltatori. Allora, questa resurrezione ti ha convinto? No, nel senso non voglio essere blasfemo né mettere in dubbio insomma i sacri principi, parlo proprio della resurrezione cinematografica raccontata da Kevin Reynolds. Kevin Reynolds rischia di passare alla storia per essere il regista di film tanto ambiziosi quanto precipitati sotto il peso delle loro ambizioni. Penso a Waterworld, penso a Tristano e Isotta. Costantemente si trova di fronte a soggetti straordinari, anche molto molto interessanti, e anche angolazioni visuali di questi soggetti particolarmente intriganti, ma realizzazioni che arrivano quasi ad essere imbarazzanti. Nel caso di Tristano e Isotta era imbarazzante, nel caso di Waterworld era un film incompiuto. Qua è complicato anche definirlo, perché io ero molto molto affascinato dall'idea di seguire forse il più grande mistero mai risolto della storia dell'uomo moderno dagli occhi di uno scettico che in qualche modo deve proteggere l'impero non tanto da quell'eroe, da quel martire, ma dalla sua divinità, e che quindi viene messo a guardia di un corpo che si era già annunciato come in via di resurrezione. Ne esce poi un legal thriller però particolarmente mal riuscito, un po' perché affidare secondo me un qualcosa di così complesso a un attore mediocre come Joseph Fiennes già non è un'idea geniale, non è che gli altri come Tom Felton o Curtis riescano a fare molto altro, e anche l'idea molto intelligente di mettere tutto in 4 giorni alla fine non dà quel senso claustrofobico e di ricerca di una lotta contro il tempo, ma semplicemente si sente una sorta di diluire all'infinito quello che già si sa, perché di fatto poi lo spoiler è evidente, è dato dalla storia, è dato dalla religione più comune nell'Occidente. È un peccato perché poteva essere un film molto interessante, alla fine sembra un po' una parodia, anche poco rispettosa. Sì, assolutamente, in certi momenti, per esempio, gli Apostoli sembrano gli hippie di Hair, per intenderci, del musical degli anni 70. Boris, rimani con noi, questo era Risorto di Kevin Reynolds, direi bocciato, e sono assolutamente d'accordo con te nella sua integrità. Torniamo fra poco, dopo la viabilità, per parlare di Brooklyn. La Rosa Purpurea. Rosa Purpura che continua con Brooklyn, il secondo film di cui vogliamo parlarvi in questo weekend, ed è un film che ha raccolto 3 nomination agli Oscar, film di una certa qualità, struttura narrativa e recitativa. John Crowley lo dirige, Saoirse Ronan, che è un volto sempre più importante, che si sta veramente sempre più affermando nel cinema americano, è la protagonista assoluta di questa storia, che racconta di fatto l'emigrazione irlandese negli Stati Uniti. Negli anni 50 sono sempre di più le persone che partono, soprattutto i giovani che partono dall'Irlanda contadina per andare verso la grande mela che si sta fermando proprio in quegli anni, ma New York non è solo un sogno, a volte può essere anche un incubo, può essere una difficoltà. Questa ragazza parte, arriva lì, conosce un ragazzo italoamericano, le cose crescono fra di loro e diventano amore vero, diventano matrimonio, fino a quando non arriva la morte dell'unica sorella in Irlanda, e da lì le cose cambieranno molto, come spesso la vita fa quando i destini sembrano tracciati e invece una interruzione di percorso, un passaggio, una zona d'ombra deviano la traiettoria. Un film diretto in maniera molto elegante, devo dire, con grande tatto da John Crowley, e con una protagonista, dicevamo, Saoirse Ronan, che Boris è davvero una, insieme a Jennifer Lawrence, mi sembra forse oggi di quella generazione un po' l'elemento cinematografico hollywoodiano con più promesse per il futuro. Sì, forse anche di più, nel senso che Jennifer Lawrence ha un carisma naturale che la Ronan sì ha nei lineamenti antichi, ma soprattutto nella preparazione, un'espressività straordinaria, una capacità interpretativa veramente potente. Mi viene da pensare e da mettere vicino a queste due anche Carey Mulligan, per dare un'idea di chi sono le nuove leve di questa generazione di attrici. Brooklyn si fonda forse anche troppo sulla sua interpretazione, perché è anche sulla, diciamo, su tutte prestazioni individuali, nel senso sulla regia elegante di Crowley, sulla interpretazione perfetta della Ronan, fin troppo perfetta, quasi quanto quei costumi, hai l'impressione che il film non si sporchi mai, non lo fa nemmeno uno come Nick Corby, che normalmente ha il coraggio di uno sguardo trasversale, che qui invece è molto classico e molto preciso anche nel raccontare la storia di un emigrante che è sempre combattuto tra la nostalgia e la voglia invece di affermarsi in un nuovo mondo, di essere indipendente. E così Brooklyn ti lascia sempre un po' spiazzato, perché ha il pregio di essere semplice, ha il pregio di avere un regista che ha un senso estetico particolarmente raffinato e un'attrice che, di cui sicuramente sentiremo parlare, a mio parere, fra 40 anni o 50 anni, come l'erede di Meryl Streep, però forse gli manca un po' di anima, e lì la colpa è un po' di Orbi, che invece è bravissimo a regalare di solito quel quid di emotività e di emozione in più, e si finisce per non emozionarsi più di tanto, non essere coinvolti più di tanto. Ma sicuramente è un lavoro molto molto interessante, e a chi piace il genere del film in costume non potrà assolutamente lamentarsi della riuscita di, certo, Brooklyn. Il film in costume è anche il film, diciamo, romantico, anche un po' melò, se vogliamo, in certi aspetti. Ricordiamo, ovviamente, Saoirse Ronan è di nascita britannica, parlavamo di cinema americano, perché poi il sistema cinematografico che mette dentro e fa diventare star questi attori e queste attrici è sicuramente quello americano. A questo punto noi giochiamo insieme, perché è arrivato il momento di provare a vincere, prima da indovinarlo, poi a vincerlo, il nostro film misterioso di oggi. Disegnando un triangolo. No, Christy, non devi disegnarlo così. No, guarda, figliuola. Ecco, questo è un triangolo. Quello non è un triangolo. È una? Che cosa sarà? E allora, la rosa purpurea chiocciola radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Avete sentito, si parlava di disegno, di triangolo. Cercate di farvi venire in mente di quale film si tratta. Scriveteci il titolo e il vostro indirizzo per provare a vincere questo film che sveleremo la prossima settimana, ma di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. È arrivato il momento di Frankenstein, perché ciclicamente questa figura così archetipa nella storia dell'horror e della letteratura in generale, coniata, cesellata da Mary Shelley, ritorna al cinema con nuove e sempre più particolari adattamenti, diciamo, a questo libro. Qui siamo con il film di Bernard Rose Nei nostri anni, quindi un adattamento contemporaneo. Sentiamo la clip. Frankenstein. Allora è tutto vero. Mi hanno creato 200 anni fa. Nessun altro è come me. La tua forza, la tua velocità, la tua resistenza sono uniche. Puoi usare questi doni in una guerra che ti appartiene. Devi seguirmi. Là fuori c'è un intero esercito di mostri simili a me. Saranno migliaia. Dio ti maledirà. Lo ha già fatto. E allora, intanto un Frankenstein che non è orribile e diciamo gigantesco e mostruoso, eccetera, come nell'iconografia classica. Poi il tentativo di raccontare la violenza di questo personaggio rispetto all'umanità che la circonda, con la violenza subita contro natura nella sua creazione. Il film, dicevo, di Bernard Rose, Xavier Samuel, Carrie-Anne Moss sono i protagonisti principali. Boris, operazione riuscita? Secondo me dividerà tutti quanti, nel senso che ci si dividerà tra quelli che ameranno il progetto e chi invece lo osteggerà completamente, perché sostanzialmente si pone, a differenza di tanti altri rifacimenti, in profilo estetico e di adattamento radicalmente lontano dal modello, almeno a livello filologico, e cerca di essergli vicino invece nel senso del contenuto. Chiaramente gli appassionati, i filologi e anche i fanatici del modello originale non potranno amare un Frankenstein che non ha un dottore particolarmente morboso, che per realizzare il suo progetto infernale di seppellisce cadaveri, non possono apprezzare questo Frankenstein che viene costruito secondo dei modelli scientifici radicalmente diversi, e soprattutto forse non possono amare neanche due personaggi che sono abbastanza lontani emotivamente da quelli in particolare del modello letterario. A me però affascina questa visione, un po' perché i classici sono fatti per essere traditi, e più ci se ne allontana a livello cronologico, più è necessario trovare in loro la modernità. E Frankenstein era un modello che cominciava ad invecchiare, era un modello che arrivati alla clonazione, arrivati a un uso della distopia costante, la settimana scorsa abbiamo parlato di Divergent e di come il genoma poteva diventare una gabbia, era interessante sentir parlare, tra l'altro in soggettiva, il mostro con 200 anni di esperienza sulle spalle. Il film cinematograficamente ha i suoi problemi di ritmo, ha anche i suoi problemi di, a mio parere, di visione, perché non riesce a trovare un'atmosfera abbastanza gotica, e quello comunque rimane un capolavoro del romanzo gotico, però a livello contenutistico e a livello di regia secondo me è interessante, oltre che al fatto che le interpretazioni che si ritrovano di fronte a dei personaggi particolarmente complicati da interpretare già in originale e con queste rivisitazioni ancora di più, sono interpretazioni assolutamente dignitose. Io propendo a premiare il coraggio, anche se non mi sono entusiasmato per il progetto, però mi piace molto l'idea che si dissacrino anche i mostri in particolare, ma anche i mostri sacri in generale. Certo, uno come Bernard Rose, che ci aveva stupito con Candyman, che era un capolavoro assoluto, forse poteva fare anche meglio, però evviva il fatto che ci siano quelli come lui che non hanno paura di fallire, tanto che credo che sia uno dei registi che ha nel curriculum la maggior parte di lavori non conclusi, proprio perché probabilmente ha una visione troppo originale, quindi tendo a premiarlo. Ecco, mi sembra assolutamente l'approccio giusto. Tra l'altro c'è anche da dire che mai come oggi il dibattito sulla genetica, sull'uomo che cerca di ricreare l'uomo, è attualità, è, come dire, contemporaneità. Meriscelli forse non se l'aspettava, sapeva perfettamente quando ha scritto Frankenstein che stava scrivendo una cosa, sì certo, futuribile, ma chissà quando. Ecco, siamo arrivati forse vicini a quel chissà quando, almeno nel dibattito, nella percezione, nelle notizie che arrivano dai giornali. Per cui l'idea di avvicinarlo ai nostri tempi, di provare a dargli un tono quasi scientifico, è sicuramente da premiare. Boris, rimani con noi, fra poco parleremo di Kung Fu Panda, però ti aspettiamo dopo perché parleremo anche di Truth, un altro dei film che arrivano in sala in questo fine settimana. Adesso lì nella regia, poi Alessandro Carloni, Fabio Volo, Kung Fu Panda 3 qui alla Rosa Purpura. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo della prospettiva del cane, per cui uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione. Qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea continua con Kung Fu Panda 3. L'abbiamo annunciato, è sicuramente il film della settimana per quanto riguarda incassi, attesa, capacità di essere, come dire, ampio nella ricettività del pubblico, che va sicuramente dai bambini ma anche molto agli adulti per questo personaggio giunto alla terza puntata della sua saga. Ma c'è anche una serie TV ormai che lo immortala quotidianamente e che, come dire, rispecchia un po' tutti noi, no? Questo personaggio che non è mai abbastanza cresciuto, che ha tante debolezze ma anche una forza interiore che sa tirare fuori il momento giusto. Questa volta la novità è, da una parte, la regia di Alessandro Carloni, un italiano che insieme a Jennifer Yu Nelson firma proprio come caporegista questo film, ed è la prima volta che un film di questa portata ovviamente viene diretto da un italiano, che abbiamo tra l'altro intervistato nell'ambito di Cartoomix qui a Milano. Quindi fra poco sentirete l'intervista esclusiva con Alessandro Carloni, bolognese di nascita, che parla con questo slang americano molto molto divertente. E poi anche Fabio Volo, che è la voce di Po in questo film, sentiremo anche lui. Prima però facciamoci un po' l'orecchio a Kung Fu Panda 3 con la clip. Chi sei tu, papà? Dal tuo vecchio un abbraccio! Vieni con me, c'è un villaggio segreto dei panda sulle montagne. Wow! Benvenuto a casa, figliolo. Kai è tornato! Chi? Il maestro del dolore, la bestia della vendetta. Il crea vedove. Una canasca. Vabbè, ho lavorato con Oogway. Oh, oh, il maestro Oogway! Silenzio! Arriva per i panda. Devi insegnare loro a combattere. Io sono pronto. Sei pessimo. E allora, la storia comincia, diciamo così, in una sorta di al di là, dove che manda nell'aldiquà, cioè sulla nostra terra, un agguerritissimo cattivo in questo caso, che deve con i suoi guerrieri di giada praticamente cristallizzare, giadizzare, fatemi dire, tutti i personaggi, soprattutto gli amici, gli istruttori, i maestri, i compagni d'avventura di Panda. E proprio Po sarà lui a dover salvare la sua razza in questo caso, in questo splendido villaggio dei panda, cercando di tirar fuori da se stesso quello che non è mai riuscito a fare, insomma diventando maestro e insegnando agli altri quello che lui sa, cioè le sue forze interiori. Non è mai stato un grandissimo combattente il guerriero dragone, però adesso deve dimostrarlo, deve dimostrare di essere qualcuno e di saper insegnare agli altri, che è una delle grandi tematiche di questo film. L'altra è il fatto che Po finalmente scopre di avere un padre biologico. Dopo essere stato allevato da un'anatra che ha creduto padre sin dall'inizio, si trova con due papà, e qui chiaramente si è aperto tutto il dibattito appunto sulle stepchild adoption, su le unioni civili, eccetera eccetera, ma insomma è un dibattito che va oltre quella che è la fruizione di questo personaggio. Un film molto divertente che veramente tiene insieme tutta la famiglia, perché Carloni è riuscito a tenerlo intanto in una durata sull'ora e mezza che è praticamente perfetta, con un ritmo veramente importante, ma con anche la capacità di avere degli allargamenti proprio di orizzonte, dei momenti nei quali il film, non dico si ferma, ma guarda verso lo spettatore, guarda verso i territori che sta esplorando. E quindi un film in cui si ride molto, perché le battute e la sceneggiatura sono molto molto efficaci, e in cui il cast vocale ovviamente è importante, come sentiremo anche da Carloni. Quindi un Kung Fu Panda 3 che ha tutte le carte in regola per fare molto bene al botteghino, chiaramente anche in Italia, che valutiamo come uno dei più riusciti dell'intera serie, dell'intera saga di Kung Fu Panda. A questo punto sentiamolo però, Alessandro Carloni, in esclusiva per La Rosa Purpurea, preso a Cartoomix a raccontarci il suo rapporto con Kung Fu Panda 3 e anche con Steven Spielberg, che ne è il produttore. È una rarità trovare un italiano che dirige un cartone, un film d'animazione digitale di questo livello, di popolarità, di storia, di pubblico. E allora la prima domanda diventa: come hai fatto? Ma io semplicemente ho avuto la fortuna di cominciare molto presto. Io già a 17 anni ho lasciato l'Italia e ho cominciato a lavorare. Ho fatto animazione in Germania, in Danimarca, in Inghilterra. Ho fatto lungometraggi, ma poi ho fatto anche la direzione di cortometraggi, di pubblicità e di music videos. Quindi sì, purtroppo io so che per ogni personaggio come me che riesce ad arrivare ci sono centinaia di ragazzi italiani che hanno molta passione ma non hanno le opportunità, e io quindi forse spero di avere un po' di talento mio, so che ho anche avuto molte molte opportunità e molta fortuna. Senti, con Kung Fu Panda 3 si trattava di rimettere le mani su un personaggio di grande successo, che poi è diventato di grande successo anche con la serie, e quindi entra nella TV dei bambini tutti i giorni. Con quali logiche hai approcciato questo tema? Cioè, cosa hai voluto cambiare, cosa hai voluto tenere? Ma io volevo cambiare Po il meno possibile, sinceramente. Io, essendo una delle persone che ha avuto la fortuna di lavorare alla sua nascita e inventare un po' il personaggio, io adoro il fatto che lui sia così bambinone, così, che avere questo entusiasmo infantile bilanciato con il suo insicurezza in se stesso. E quindi la mia paura era di fare qualsiasi cosa che lo potesse cambiare. La cosa che abbiamo scoperto era che l'opportunità per far sì che lui continui a evolvere, cresca senza perderlo, era dargli l'opportunità di insegnare ciò che aveva imparato. Quindi l'idea è stata semplicemente che l'eterno studente doveva diventare maestro. Quindi tutte le lezioni che lui ha imparato, le cose che lui, tutte queste, il concetto tematico del franchise, poteva tornare in superficie grazie all'opportunità di Poe di insegnarle ad altri. E questo al tempo stesso ci dava una premessa comica veramente forte, perché sai, l'idea di un cialtrone imbecille come Poe dover insegnare il Kung Fu ad altri cialtroni più imbecilli ancora di lui dava molte opportunità a noi divertirci in questo. Senti, hai creato un mondo che è quello della Terra degli Spiriti, veramente poco visto, anzi direi mai visto nella storia dell'animazione, e non è facilissimo oggi avere degli spunti originali. Dove hai attinto? Da cosa? Dalla pittura? Da che cosa hai attinto questo mondo senza materia che si rivela allo spettatore? Ma un pochino ci siamo ispirati anche a noi stessi, nel senso che nel primo film il film comincia con un sogno in animazione tradizionale, a disegni, ed era un mondo in cui Po si immaginava questo guerriero leggendario, dove c'erano questi templi che volavano, queste luci, e semplicemente abbiamo pensato che il mondo degli spiriti, il Spirit Realm, fosse un po' la manifestazione tangibile, vera, di questi sogni, di questa immaginazione. Infatti quando Po arriva nello Spirit Realm, nel mondo degli spiriti, un po' il mondo che si crea attorno a lui, abbiamo copiato letteralmente alcuni dei frame del sogno del primo film in realtà nel digitale, ovvero quello che erano i disegni sono diventati il CGI. E andando all'indietro da quel momento in cui Poe ricreava il mondo della sua fantasy nel mondo dello Spirit Realm, siamo andati indietro distruggendo questo mondo, contaminandolo, rompendo questo mondo in cui, perché alla fine il concetto del Spirit Realm era che chi inabitava il mondo dello Spirit Realm creava il mondo attorno a sé, quindi quando era il nostro antagonista ad abitare il mondo dello Spirit Realm era questo mondo distrutto, e intangibile e molto effimero. Quando arrivava Poe tutto si metteva un pochino a posto, e quindi è nato un po' all'indietro dal momento in cui Poe arriva, distruggendolo al contrario. Senti, hai lavorato con Spielberg, questo è un film DreamWorks, e insomma hai dovuto dirgli anche dei no, cioè lui aveva delle idee su alcune cose, ecco, com'è dire no a Spielberg? Ma è facile e difficile allo stesso momento. Difficile perché, sai, lui è veramente un ruolo importante anche sia per la mia compagnia ma per il cinema in generale, ma è facile perché lui, essendo regista, sa cosa chiedere. Non mi parla soltanto come un capo che dice fai questo, mi parla come un collega che sa cosa vuol dire raccontare una storia, quindi lui conosce i personaggi ma non certo bene come me, quindi se lui mi dice facciamo questa idea, facciamo questa cosa, molto spesso io devo dirgli sì, bellissima idea ma non funziona per Poe, perché Poe non farebbe questo, e lui questo lo capisce benissimo. E un'altra cosa che mi ha colpito è il fatto che il film abbia avuto degli scatti in avanti a seconda anche di quelle che erano le idee degli attori che riprestavano la voce nella versione originale americana. Assolutamente, sì, noi lavoriamo con gli attori molto presto nello sviluppo del film, e loro veramente creano i personaggi assieme a noi. Cioè, non c'è dubbio che Jack Black è Poe, per quanto io penso che Fabio Volo faccia un grandissimo lavoro, avendo Jack Black così all'inizio del procedimento fa sì che anche il manierismo del personaggio, anche l'apparenza estetica veramente diventa veramente Jack Black. E come raccontavo, un altro personaggio che ha fondamentalmente definito il personaggio che lui recitava era Bryan Cranston, perché lui aveva così un istinto comico che il personaggio, da severo padre che disapprovava le scelte del figlio, è diventato un burlone molto simile a Poe stesso, e questo ha cambiato proprio la storia. Senti, chiudiamo da dove abbiamo cominciato. Hai detto, per uno che ce la fa ci sono tanti ragazzi che vogliono e non hanno sbocchi. Cosa consigli a quei ragazzi? Qual è il consiglio di uno che ce l'ha fatta? Forse due consigli. Uno è di cominciare a lavorare prima che possono e imparare che alla fine il talento è molto importante, ma sapere collaborare con altri forse è ancora più importante. E due, di aiutare me e a quegli altri nel mondo che ci provano a cambiare questa cosa e accettare il fatto che l'arte è nobile ma deve essere applicata per far sì che possa avere successo e possa essere vista da molti. Quindi noi siamo artisti ma dobbiamo essere professionisti per far sì che un film possa diventare anche un prodotto, così che il cinema possa essere un mestiere. E quindi io molto spesso mi incontro con giovani che criticano l'applicabilità dell'arte come se fosse una scelta commerciale, ed è un po' un infantilismo che purtroppo fa sì che il cinema italiano, specialmente il cinema d'azione, ma italiano, rimanga a un livello senza quasi cominciare, perché devi accettare che l'arte può essere applicata e un artista può diventare un professionista. La lezione di Andy Warhol alla fine. È vero, no? Esatto, sì. Grazie davvero. Grazie a te. E allora Alessandro Carloni alla Rosa Purpurea per raccontarci la sua regia di Kung Fu Panda 3. Come dicevamo, lui diceva, avete sentito, le voci sono molto importanti, fanno parte della costruzione dei personaggi a partire da Jack Black, che è la voce di Poe. In Italia la voce di Poe è quella invece di Fabio Volo, a cui Boris Sollazzo ha fatto un paio di domande. Poe trova il suo chi quando capisce di essere tante cose insieme. Sì. Tu quando hai capito di essere tante cose insieme? Cioè che non saresti stato solo Fabio Volo Iena, ma che avresti scritto, avresti recitato, avresti... Perché io non sono niente delle cose che faccio, che è anche il motivo di quello che ci siamo detti prima. Io scrivo i libri, non sono uno scrittore, faccio i film, non sono attore, faccio la radio, non sono un DJ. Io sono Fabio che decide di raccontare il mondo che vede con le mie capacità, diciamo, ma non sono nessuna di queste cose. Io mi focalizzo sull'espressione della mia creatività. L'espressione della mia creatività si manifesta attraverso la radio, la TV, la cosa, perché ogni mezzo ha delle regole diverse, no? Quindi io ciò che faccio in radio non lo posso magari fare in un libro, non lo posso fare in un film e viceversa. È come visitare una città, se la visiti a piedi, se la visiti in bicicletta o coi mezzi pubblici, vedi cose diverse. Per me la creatività è il respiro della personalità, quindi io utilizzo il mio lavoro come strumento di conoscenza di me e lo sviluppo con vari mezzi, però non sono nessuno di queste cose. Tu affronti la creatività con i libri, l'interpretazione con il cinema, anche diciamo l'organizzazione culturale con la serie televisiva. Sì. La regia come mai non ti attrae? Oppure La regia richiede un tempo superiore alle cose che faccio adesso, e in questo momento, nel senso che avendo fatto i film, avendo fatto anche scritto sceneggiature, è chiaro che prima o poi arriverò a quella porta, ma non è ancora una cosa che mi sento di aprire, insomma, ecco. Arriverà col tempo, ci sto arrivando lentamente. È un bel lavoro da far da vecchi, secondo me, da più anziani. Fabio Volo a raccontarci se stesso e il suo rapporto col panda per Kung Fu Panda 3, seconda traccia del film misterioso di oggi. Ecco fatto. Bene, ora prova tu. Soffia. Soffia. Calma, calma. Dai, un bel respiro. Benissimo, benissimo. E allora la Rosa Purpurea @radio24.it, se l'avete individuato diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film. Ora viabilità, fra poco torniamo con tutto il cinema da vedere in casa, ma prima un'altra novità in sala, Truth, il prezzo della verità. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, quarta parte della Rosa Purpurea, dopo la buffata di Kung Fu Panda 3 è il momento di parlare di un altro film, sicuramente cambiamo decisamente genere e torniamo in un certo senso a un genere che sta avendo una nuova vita, una nuova vitalità. Pensate al caso Spotlight, vincitore dell'Oscar, pensate alla Grande Promessa, il cinema di genere investigativo giornalistico americano, cinema di impegno civile si diceva quando quel tipo di cinema lo facevamo in Italia. Però sì, qui c'è sempre la figura della squadra giornalistica in testa a tutto. Per raccontare in questo Truth, il prezzo della verità di James Vanderbilt, per raccontare, dicevo, quell'inchiesta giornalistica che avrebbe dovuto affossare le possibilità di rielezione di George Bush e che invece ne ha favorito il secondo mandato. Abbiamo nuove informazioni sul presidente. Il presidente e la sua famiglia avevano forti legami con Al-Qaeda. E lei ha le prove? Ora avvieranno un'indagine. Non possono farci questo. Non possono incriminarci solo per aver fatto il nostro lavoro. Vogliono parlare con la tua fonte. Qualcuno ci deve confermare quei rapporti. Nessuno vuole parlare di questo. Vogliono solo parlare di Ward, di contraffazioni e pregano Dio perché questa verità non venga mai a galla. E allora, la storia nel 2005, Dan Rather, grandissimo anchorman americano della CBS, rassegna le sue dimissioni dopo le polemiche esplose per la messa in onda di un servizio che sostanzialmente diceva che George Bush aveva fatto finta di andare nella Guardia Nazionale Aerea durante la guerra del Vietnam, in realtà si era imboscato. Questo servizio è documentato, è portato avanti da una giornalista molto, come dire, molto combattiva, che nel film ha il volto di Kate Blanchett, mentre Dan Rader e Robert Redford, quindi sono nomi, come dire, che hanno anche una certa pregnanza. Viene fuori però che c'è quello di un carattere usato nei documenti che sembra impossibile possa appartenere a documenti di quell'epoca e che invece si tratti di un carattere tipografico tipico dei computer e quindi della nostra epoca. Tutto questo fa ribaltare completamente l'inchiesta e da quella che doveva essere una spallata importante al potere politico ne viene fuori una retromarcia anche abbastanza imbarazzante. Boris, dicevo, un periodo d'oro, direi, almeno sotto il profilo produttivo per il cinema di inchiesta giornalistica americana. Devo dire che io qua mi sono divertito molto, anche se è una vicenda molto americana che ha fatto un po' fatica a venire fuori, diciamo, in quei giorni, in quegli anni, dai confini degli Stati Uniti, però dove ho trovato, fammi dire, paradossalmente quasi più regia che nel caso Spotlight. Sono d'accordissimo con te, perché non vi aspettate da Truth l'esaltante climax, o come lo chiamano gli americani, climax, che trovate nel caso Spotlight o in Tutti gli uomini del presidente o in Newsroom, che ha aperto questa nouvelle vague del cinema giornalistico d'inchiesta, cioè il tentativo di raccontare anche l'esaltante lavoro del reporter che indaga sui segreti di un paese o sui segreti nascosti di una società. Truff ha un'impostazione radicalmente diversa. Truff, come denuncia anche il titolo, è una riflessione approfondita sulla verità e su quante facce possa avere questa verità e sulla responsabilità anche che è affidata ai giornalisti nell'interpretarla. Il film è aiutato da un casting secondo me perfetto, da Redford a Blanchett, Dennis Quaid, che è un attore secondo me sottovalutatissimo, forse per una certa fissità espressiva, ma che qui è decisamente organica al film, come lo era nel caso Spotlight quella di Mark Ruffalo. C'è anche un ottimo Topher Grace che riesce a portare avanti il suo personaggio, non particolarmente facile, in maniera brillante. Il film è una mattonella originale in più, cioè non si pone sulla scia di tanti altri successi, ma in qualche modo va in controtendenza, come tutti i prodotti che vanno in controtendenza e che sono fatti in maniera mirabile, va apprezzato, quindi lo consiglio caldamente. E allora Boris, con il racconto di Truth, il prezzo della verità, noi ci salutiamo e appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Tutto il cinema che c'è in sala alla Rosa Purpurea, ma anche il cinema da vedere in casa, cominciando con il risolvere il game della scorsa settimana. E come conquistiamo la cittadella? Supponendo che ci arriviamo vivi. Se blocchiamo il passo, non è difficile. Lui non ha che cuccioli di guerra e figli di guerra malati. E allora si trattava di Mad Max Fury Road, molti a indovinarlo, i primi, i più veloci, Arturo Paradiso di Arconate e Francesco Albertini Villanis di Torino, loro riceveranno la copia in Blu-ray di questo film che ci facciamo raccontare nella sua edizione on video Blu-ray da Giulio San Giorgio di Film TV, ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, arriva in DVD e Blu-ray quello che è sicuramente stato uno dei film più significativi ed esaltati ed esaltanti dello scorso anno, un culto istantaneo, che è il quarto capitolo della saga Mad Max, un film veramente fuori standard, nel senso che è pieno di scenografie action a rotta di collo e ad alto tasso di artigianalità, laddove oggi si userebbe il digitale, è pieno di colori saturi e squillanti, dove oggi ci sono cromie, cupe e grigie, e con eroi misteriosi e femmine furenti laddove oggi ci sono spesso uomini fragili con i superpoteri. Il Blu-ray è veramente meravigliosamente adeguato allo spettacolo allestito da George Miller e solo la traccia italiana audio è inferiore all'alto livello di sonoro di quello originale, per gli esperti siamo 5.1 contro Atmos e ci sono 100 minuti di extra, quindi insomma è qualcosa da avere assolutamente. Serata completa, diciamo così, con Mad Max Fury Road. Invece in TV lunedì 21 marzo capolavoro di Sam Peckinpah, Getaway. Sì, fuga col malloppo per un ex galeotto e la bellissima moglie, dopo l'ultimo Buscadero e quando ormai la sua carriera sembrava destinata a sprofondare per il fuoco di fila degli insuccessi, Sam Peckinpah realizza Getaway, ancora una volta con Steve McQueen protagonista, e cita quello che rimane il suo primo e unico successo al botteghino. L'attore dà vita a un personaggio che poi contribuirà a alimentare nel mito anche dopo la morte. La sceneggiatura di Walter Hill, tratta da un romanzo di Jim Thompson, che ribalta il finale pessimista del libro, perché in fondo Getaway è sì uno strepitoso western urbano, ma è soprattutto una storia d'amore in cui due Bonnie e Clyde la fanno finalmente franca. E ricordiamoci allora l'appuntamento su Iris alle 9.30 del mattino di lunedì 21 marzo con Getaway. Invece mercoledì 23 si cambia continente, ma non si cambia qualità. Cognome e nome La Comme Lucien di Louis Malle. Sì, siamo nella Francia occupata del 1944 e un contadino che avrebbe voluto entrare nella resistenza entra invece come collaborazionista tra gli ausiliari della polizia tedesca. Finisce però per innamorarsi di una donna ebrea. Riduco all'osso veramente una trama che mette alla prova proprio l'idea di un manicheismo della storia, visto che Louis Malle mette in scena un'acuta analisi del passato fascista della Francia di Pétain e porta al pettine i paradossi di un contesto storico che è veramente un maestro a ricostruire. Lo fa tramite la figura di un giovane che agisce soprattutto per pulsioni primitive, quasi non distinguendo mai, e molto spesso nemmeno per colpa sua, il bene dal male. È veramente un film, un grande film di alta pietà umana e morale, che tra l'altro fu ricevette accuse da ogni dove di qualunquismo storico. E allora Louis Malle con cognome e nome da Com Lucien, Rai Movie alle 8 del mattino. Vi abbiamo dato due mattinée televisive la prossima settimana, mercoledì 23 marzo. Grazie Giulio, ci sentiamo fra 7 giorni. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine, come ci racconta la regia, con le note della nostra sigla. Allora, appuntamento settimana prossima, non mancheranno sicuramente sorprese e grandi novità al cinema. Un saluto da Franco D'Assisi.